Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'Isola di Arturo, di Elsa Morante. Il giorno seguente fu per noi, fin dal risveglio, una festa felice. La luce si era levata così limpida che pareva di essere in aprile, invece che al 23 novembre. E dopo aver dormito fino al tardo mattino, io feci una corsa alle spiagge e al molo, risalendo poi dalla parte della piazzetta. Il mare, l'aria e tutte le cose che incontravo sulla strada dividevano la mia felicità, quasi che l'intero universo fosse la mia famiglia. I giardini sui lati della strada, che ieri notte sembravano dei miraggi desertici, oggi mi festeggiavano fedeli. E di nuovo io mi sentivo innamorato della mia isola. Tutto ciò che sempre mi era piaciuto tornava a piacermi, perché Nunzio non era morta. Come se, fin dal tempo che eravamo piccoli e io stavo qua a Procida e lei a Napoli, fosse lei che metteva un pensiero di confidenza per me nell'indifferenza delle cose e senza farmisi conoscere, al modo di una gran signora. Quel mattino stesso lei con la creatura si trasferirono dalla stanzetta in una camera più grande, la medesima che mio padre aveva già destinato a lei il giorno dell'arrivo e dove essa allora non aveva voluto dormire. Adesso, però, con la venuta della creatura, era finito per lei lo spavento di star sola la notte, e in quanto alla camera nuziale, questa rimase di nuovo proprietà indivisa di mio padre, giacché lei prevedeva che al suo ritorno egli non potrebbe sopportare ogni notte il pianto della creatura e altri simili disagi che invece alle madri non dispiacciono. E così quella famosa stanza del primo giorno ritorna agli onori delle cronache, come dicono gli scrittori. Senz'altro si provvide a trasportarvi un nuovo letto, scelto per l'occasione fra i molti fuori uso esistenti nel castello. Era un lettone matrimoniale di legno massiccio, dipinto con figure come usano fare a Sorrento, paesaggi, barche, la tarantella, e abbastanza elegante. Esso fu fornito di due materassi e di molti cuscini, che le donnette amiche di lei, subito accorse a visitarla, sbatterono e sprimacciarono con cura. E qua lei, simile a una regina, riceveva i complimenti delle altre. Ora che si erano abituate alla mia presenza, le sue amiche non si intimidivano più di me e ciarlavano di continuo, e io mi seccavo di udire le loro stupidaggini. Quanto poi a Carmine Arturo, mi pareva così brutto con quella faccia di mutria che non sapeva nemmeno ridere, che, nella mia opinione, egli valeva meno dell'asso di coppe. Intanto lei, pure fra tanta gente, non si dimenticava mai di me. Talora, in mezzo ai discorsi di quelle donne, senza badare a loro si volgeva soltanto a me, che stavo muto da una parte, e mi diceva, in una specie di timida confidenza, Artù! Forse intendeva chiedermi perdono per gli spaventi che mi aveva procurato la notte avanti. Non mi diceva altro che questo. Artù! La sua voce, pure adesso che essa era madre di una creatura, aveva serbato il noto sapore un po' aggrettino, quasi stonato da ragazza che non ha ancora finito di crescere, e all'udire quella solita vocina che diceva «Artù!», quando poche ore avanti l'avevo già creduta morta, io provavo una felicità così impetuosa, turbolenta, che mi facevo ancora più cupo in faccia. Era il mio carattere. Non mi sarebbe dispiaciuto di dirle almeno queste due parole. «Sono felice!». Più volte nella giornata mi ripromettevo di presentarmi in camera e di dichiararle senz'altro «sono felice», sia pure in tono indifferente. Ma in conclusione, nemmeno una simile frase di due parole non ebbi voglia di dirgliela. Lo spettacolo di Nunziatella, viva, risanata e animata, che mi sorrideva fra i suoi riccioletti a me solo, mi pareva di un tratto un fasto miracoloso, come se l'isola si fosse popolata di dei. E non sapendo come dare sfogo alla capricciosa allegria che mi invadeva il cuore, dopo un poco uscivo da quella camera troppo incantevole. Ognuno è così chignotti, όνια γεν την άνταμ κατέι, έσω σωτά τη δυνιά μου σιδάρ. Όνιον τόνι κουζέκ νιώτη, κουζέκ νιώτε και νιώτα σεντόντες. Όνια γεν την άνταμ κατέι, έσω σωτά τη δυνιά μου σιδάρ, έσω σωτά τη δυνιά μου σιδάρ. Κάντ μη αραγαλουνό μου, τα κουμέ παμιτζούν από μου. Agora custa galo vejo, um ta quebranha bico na chão. Quando vier a galo novo, ta comeba mijo na bomô. Agora custa galo vejo, um ta quebranha bico na chão. Um ta quebranha bico na chão. Pensamento subi tão alto cima um papagaio. Minha asa tarasta na chão, pamba de oberenda de boçaia. Minha pensamento subi tão alto cima um papagaio. Minha asa tarasta na chão, pamba de oberenda de boçaia, pamba de oberenda de boçaia. Saudade de minha mocidade. Onde Antônio Cosé Quinho tem? Cosé Quinho tem que não está sem tão triste. Onde a gente nada me catei. Eu sou saudade de minha mocidade. Onde a gente nada me catei. Eu sou saudade de minha mocidade. Eu sou saudade de minha mocidade. Eu sou saudade de minha mocidade. Eu sou saudade de minha mocidade. E sono soldati di mia città. Fino ad oggi, la felicità per me era stata sempre una compagna naturale del mio sangue, alla quale magari non si fa caso, come una sorella carnale. Ma oggi avvertivo in certi istanti questa cosa nuova, la presenza improvvisa, quasi insperata, della felicità, che mi incendiava la mente e mi pareva d'abbracciarmici insieme. Non sapevo distrarmi con nessun altro pensiero. Come una prepotenza, la mia gioia invadeva la luce, lo spazio, ogni angolo della casa, anche il più polveroso ripostiglio. Decidevo di uscire, di fare qualche cosa, pensavo ad esempio di andare a caccia, e mi mettevo a cercare un fucile appartenuto al nostro servo costante. Lo scovavo, e per ridere, sebbene fosse scarico, fingevo di prendere la mira contro un oggetto qualsiasi della casa, una sedia, una scarpa. Poi, annoiandomi all'idea di cercare le cartucce, lasciavo il fucile e uscivo senza pesi e libero. Andavo nella campagna e salivo sul primo albero d'aspetto maestoso che incontrassi. E là, dall'alto del fogliame, mi davo a cantare con tutta la voce che avevo in petto, come se l'isola fosse una nave corsara e io, in cima all'albero di maestra, il padrone della nave. Non avrei saputo dire precisamente che cosa in quel giorno io potessi aspettarmi dal futuro. Solo, poiché Nunz viveva ancora sulla terra, mi sembrava che il domani e ogni altro giorno a venire fosse per se stesso una sorpresa festante e potesse arrecarmi dei misteri di felicità. Mi sentivo grato, ma non sapevo a chi, non sapevo chi ringraziare. E dopo brevi momenti di riposo, ritornavo ad una irrequietezza volubile. Ebbi perfino dei pensieri da cavaliere galante. Mi venne in mente di portare a Nunz qualche regalo che le facesse piacere e le desse un segno gentile da parte mia. Una cosa che ella amava molto, come si sa, erano i gioielli. Ma io da tempo avevo finito di spendere le ultime 50 lire datemi da mio padre. Ora, mentre camminavo disoccupato lungo la spiaggia, scorsi, attaccato ad uno scoglio presso la riva, quasi a fiore della calma onda trasparente, un riccio di mare di un bellissimo colore viola. E ricordandomi che lei gustava molto i ricci di mare, decisi di portarle quello. Rapido mi tolsi le scarpe e andai a staccarlo dallo scoglio, aiutandomi con il mio temperino. Poi lo avvolsi in un pezzo di giornale trovato sulla spiaggia e corsi subito a casa da lei, smanioso di farle avere il mio regalo. Ma, sul punto di entrare nella sua stanza, d'un tratto provai un sentimento di imbarazzo, forse anche di mistero, e in fretta mi nascosi il piccolo involto sotto la blusa. Per più di un quarto d'ora mi trattenni là nella stanza, seduto al solito sul vecchio cassone da biancheria, senza dire una parola, in mezzo alle chiacchiere delle sue amiche. Sentivo le spine del riccio pungermi lievemente il petto, attraverso l'involto del giornale, e quel riccio mi dava noia, ma d'altra parte non sapevo trovare né il momento né il modo di offrirlo. Si badi bene, non era che lo considerassi un dono troppo modesto o ridicolo per la sua poca importanza. No, a quel tempo io avevo sui valori delle cose delle idee strane che non rispondevano alla realtà, e avevo la convinzione che quel riccio fosse un dono splendido, ma era proprio il pensiero in se stesso di offrire un dono a lei che mi intimidiva, e ancor peggio in presenza di tutte quelle donne. Ricordo che, nel seguito di quel pomeriggio, almeno 3 o 4 volte ritornai nella famosa stanza, oppure mi spinsi fino alla sua soglia, o indeciso rimasi là fuori sul corridoio, sempre con l'intenzione di offrire finalmente il mio dono. Magari di entrare in fretta e furia, consegnarlo nelle mani di lei senza una parola di spiegazione e fuggir via. Ma ogni volta mi mancava la voglia di decidermi a questo passo. Finché, venuta la sera, quando mi ritirai per dormire in camera mia, ritrovai là quel riccio avvolto nel suo pezzo di giornale e, indispettito, lo buttai fuori dalla finestra. L'indomani ci ci giunse una visita inaspettata. Se ripenso a quella visita, ancora adesso mi viene da ridere irresistibilmente. Era accaduto, pochi giorni prima, che una delle procidane conoscenti di Nunz avesse dovuto recarsi per una giornata a Napoli. E allora Nunziatella, approfittando dell'occasione, aveva dato a costei il proprio indirizzo di ragazza con l'incarico, se ne aveva tempo, di portare là a sua madre certa frutta secca che essa le aveva riservato e di dirle nel tempo stesso che lei stava bene e le mandava tanti baci, eccetera, eccetera. Ora, quella donna intrigante, recandosi puntuale e premurosa al pallonetto di Santa Lucia dalla madre di Nunz, non si era accontentata di portarle la frutta, i baci e le buone notizie da parte della figlia, ma, dopo un po', discorrendo, si era incaricata per proprio conto di svelarle l'opinione infernale che i nostri compaesani, e in specie le donne, avevano di mio padre. A quanto sembra, le procidane consideravano mio padre un pessimo marito. Prima di tutto, esse accusavano mio padre di lasciare la sposina sempre sola. A Procida osservavano, è vero, non erano poche le spose lasciate sole dai loro mariti per lunghe epoche dell'anno. Ma quei mariti là erano marinai. Se andavano in giro lontano dalle spose, la colpa era del loro mestiere. Mio padre invece non era marinaio. Lui faceva il mestiere di michelaccio e se si comportava a quel modo con la sposina era perché non aveva nessuna coscienza, eccetera, eccetera. È difficile indovinare tutto ciò che disse quella pettegola alla madre di Nunz, dietro almeno una dozzina di giuramenti da parte della madre di Nunz, di tacere sempre alla figlia che la sua amica aveva combinato un così bell'intrigo. Certo, la conversazione tra le due signore deve essere stata lunga e appassionata. Anzi, mi meraviglio che quella donna non abbia perso il piroscafo di ritorno per Procida. Essa poi, nei giorni seguenti, trattenuta dalle sue occupazioni, non si fece rivedere da Nunz, contentandosi di mandarle a dire, per mezzo delle altre, che la madre stava bene, ricambiava i baci, eccetera. Così Nunziatella era rimasta assolutamente all'oscuro di questa storia, e in parte ne rimase sempre all'oscuro, perché la madre, avendo fatto tanti giuramenti a quell'altra, non volle mai ammettere l'intera verità dei fatti. Né io né Nunz non potevamo prevedere nulla. Quando, due giorni dopo la nascita del fratellastro, sul pomeriggio, si udirono dei picchi abbastanza energici all'ingresso di strada. In quel momento, in casa c'eravamo noi tre soli, Nunz con la creatura ed io, e così fui io che andai al portoncino. E mi trovai davanti una donna di mediocre statura e di quella grassezza affaticata, ridondante e immensa che è proprio alle madri di famiglia. Il suo petto, in particolare, mi stupì addirittura per la sua vastità. Essa portava ai piedi due scarpacce smesse da uomo, senza le calze, e il resto del suo abbigliamento era, oltre che dimesso, alquanto trasandato e sporco. Ma tuttavia, quella ignota visitatrice si imponeva per una sua aria di grandezza sontuosa, che le derivava dallo sdegno. Era evidente, infatti, che ella era invasa in quel momento da uno sdegno appassionato. I suoi occhi mori da zingara gettavano fuoco e la sua attitudine era quella di una sultana decisa a vendicare un oltraggio. Per prima cosa la misteriosa sconosciuta mi domandò chi fossi. «Io», le risposi, «sono Arturo». «Arturo, ah, il guaglione di mio genero», ella disse pronta. «E io sono Violante, la madre di Nunziata», dichiarò. Indi con veemenza, sebbene con una lievissima ombra di apprensione nella voce, chiese di mio padre, ma la mia risposta, che egli si trovava ancora in viaggio, mostrò quasi un certo sollievo e la sua audacia non ebbe più freni. D'impeto attraversò l'entrata chiedendo in accento perentorio «E mia figlia dov'è? Dov'è la figlia mia?» e senz'altro prese a salire le scale chiamando «Nunzia! Nunzia!» Qua io, benché urtato dalle sue maniere, ritenni mio dovere di accompagnarla, trattandosi di una nostra parente. La scansai dunque risolutamente verso il muro, la scala per passarci in due era troppo stretta, e precedutala la guidai fino al secondo piano alla stanza di Nunziata. Cara, va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va. Un reflejo del pasado, el recuerdo del encuentro aquel y esa promesa que hicimos. Ahora, una vez más te siento en la dulzura tardía, una vez más vendrás. Yo te espero al final del tiempo aquel que nos unió con este amor. La magia del sueño, del sabor de tu piel y de tus labios, el ensueño que has dejado con un verso susurrado. Vengo a la misma hora del quehacer, en la ilusión, esa pasión sin par, tu perfume deseado una vez más encadenó mi corazón. Nunziata riposava a letto in compagnia del guaglione, circondata dai quadri delle vergini, felice e tranquilla. Ma la madre, al primo vederla, le gridò «Nunzia! Nunzia te!» con un accento così tragico che pareva la ritrovasse tenuta in catene e a pane e acqua in fondo a un sotterraneo, bastonata tutti i giorni e coperta di sfregi. Poi, dopo aver scambiato con lei perlomeno 30 o 40 baci, si staccò dal suo letto e le annunciò con risolutezza selvaggia: «Sono venuta a ripigliarti, nenna mia. Alzati subito, prendi la creatura in camicia, come ti trovi, tornatene a casa». A questa novità, Nunz, che all'apparizione della madre si era fatta tutta rossa di gioia, si alterò in faccia. «Perché, ma? Ma forse è successo qualche cosa a mia sorella?» «No, non è successo niente, tua sorella sta in buona salute». «Ma forse a Wilhelm?» domandò allora Nunz con un filo di voce. «No, non darti pensiero per lui. Ti accerto che lui se la passa sempre bene. Basta, non fiatare più, senti a quello che ti dice Mammata. Guarda, alla creatura non le faremo prendere freddo. La involgeremo bene dentro questa coperta del letto». «Tanto si capisce», soggiunse girando le pupille malevole verso la mia direzione. «Poi gliela rendiamo, la loro coperta. Mica vogliamo tenercela». A questo punto io fischiai con disdegno estremo e le dissi: «Mi fai ridere!» Essa si era di nuovo accostata a Nunziata e la baciava, con aria prepotente per tutta la faccia. Ma la mia matrigna, per quanto sedotta un poco da quei bacetti, non glieli restituiva più e rimaneva seria seria, quasi difendendosi da lei. «Ma se davvero non è successo niente, ma...» disse con tono sempre più insospettito e inquieto. «Perché venite d'improvviso a parlarmi di partire da casa? Con questa creatura boccerella di 2 giorni e senza nemmeno poterlo dire al marito mio?» All'udire nominare mio padre, l'altra smise di baciarla. «Il marito tuo!» ripeté con occhi foschi. Poi soggiunse, ergendosi con certe note acute nella voce: «Il marito tuo! Me ne scordavo già! Anzi, fammi sapere una cosa. Per che motivo si trova assente lui di queste giornate? E dove si trova, eh? Ci piacerebbe saperlo». «Dove si trova? Lui? Sta in viaggio. Che ne saccio?» mormorò Nunz confusa a quei modi aggressivi. Ma la madre, a simile risposta, tradì nel volto un sentimento addirittura feroce. «Che saccio, eh?» proferì. «Ecco che bella risposta deve dare una poverella riguardo al marito suo. Che saccio? Così per lui la famiglia sarebbe immondezza che si lascia in un cantone. Ah, m'era stato detto, ma io non volevo crederci e sono venuta da Napoli per sincerarmene apposta. Oimà! Esclamò Nunziata ribellandosi con un tremito delle labbra e fieramente accigliata. Dopo più di un anno che stavamo lontani siete venuti qua per dirmi queste brutte cose. E chi è stata a sparlarvi del marito mio? Deve essere stata Cristina, quella mala lingua che non capisce niente. Opinò dopo un poco, tutta scura in volto, indovinando prontamente la vera origine dello scandalo. Cristina, ma chi è? Quella conoscente tua di Procida. Figurati, sì, quella povera femmina che ha avuto appena il tempo di dire buongiorno, consegnare quel cartoccio di fichi e salutare perché sennò perdeva il vapore. Adesso invece te lo dice mammata veramente, non sia te chi è che m'ha parlata. M'ha parlato il cuore, ecco chi m'ha parlato. Ho sentito come una voce in petto che mi diceva «Violante, fai presto, rimedia quelle 3,50 lire per il vapore con qualunque sacrificio e vada Nunziata tua che là all'isola di Procida piange amare lacrime. E qua adesso ricevo conferma di quello che m'ha detto il cuore mio. Quando sento che lo sposo non ti fa nemmeno sapere dove si trova, nemmeno di una cartolina si degna. Ma lui se non dà notizie non è per farmi addannare, è perché si scorta». «Chi è uomo tiene sempre tanti pensieri, mica può sempre scrivere alla famiglia», replicò Nunz, più e più ombrandosi contro quelle accuse. «E perché sta sempre in viaggio, eh? Che forse è marinaio lui che tutto il tempo deve stare in viaggio?» «Oh, ma da questa vostra parola posso riconoscere quelli che v'hanno parlato, che la gente qua ai procidani lo odiano a lui proprio per questo fatto, perché loro sono marinai e viaggiano per bisogno di moneta, mentre che lui, invece...» concluse alteramente. «Viaggia perché è fantastico e per levarsi gli sfizi suoi». «Ah, gli sfizi, eh? Così ha trovato pure l'avvocatessa, quello. Ti conosco, va, che fino da piccirella tu ti chiamavi Nunziata perché non vuoi essere contrariata. Ma io mi chiamo Violante e dico mea culpa che sono stata io a dare la figlia mia a quell'assassino». «Ma tu eri contraria, pareva che il sentimento te lo dicesse. Si vede che, benché nennella, tenevi più giudizio di mammata. A pensare, mi pareva di aver trovata l'America per te, a trovarti quello sposo. E adesso, invece, mi si aprono gli occhi per vedere questo bell'affare che abbiamo fatto. Ecco a chi t'ho sposata, sangue mio. T'ho sposata a un maiale, a un infame che t'ha lasciato partorire qui, abbandonata e sola, come se tu fossi qualche femmina malamente». «E che ti lascia sempre, sola e senza nessuno, come un'appestata, mentre lui se ne va pazziando». A simili invettive, Nunziata parve non soltanto offendersi, ma addirittura spaurirsi, al punto che sulla faccia le scese un pallore freddo freddo, quasi da malata. Si era levata a mezzo dal letto, poggiando un piedino in terra, e con una voce appesantita e violenta ripeteva «Ah, ma che dite? Ma state zitta, ma...» Nel tempo stesso, i suoi occhi andavano di continuo verso di me, preoccupandosi che io dovessi udire certi discorsi, e al posarsi su di me, il suo sguardo sconvolto lasciava tralucere nel fondo un sorriso affezionato, come se ella, fra l'altro, intendesse dire a sua madre «Non è vero che stavo sola, c'era Arturo qua con me, queste tue parole offendono più di tutti Arturo, ma forse che lui è nessuno, Arturo, il bel compagnuccio mio». Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.